le matematiche di produzione e di vestibilità di un brand, quindi calcolando in real time e per ogni categoria merceologica la taglia più vicina alla corporatura della persona. E lo facciamo attraverso un algoritmo matematico che riesce appunto a fare questo matching di dati. Voi vi rivolgete sia ai consumatori che alle aziende, è così? Abbiamo un modello di business che va verso l'azienda e verso il consumatore, un B2B2C. Al consumatore offriamo l'esperienza di misurazione e profilazione con il nostro dispositivo ON e la nostra app che stiamo implementando per qualsiasi dispositivo, perché possa essere scaricata e utilizzata da qualsiasi dispositivo, e offriamo un'esperienza di taglia corretta, come la chiamiamo noi, all'interno dell'app. Quindi con lo user ID, con lo size ID che l'utente crea, riesce ad accedere ad un numero estremamente ampio di piattaforme e-commerce online e avere all'interno della propria applicazione la taglia corretta su ogni categoria merceologica. Quindi un'esperienza diventa Axize un vero e proprio motore di ricerca della taglia corretta per l'e-commerce di moda. Chi lo deve comprare quindi ON? Può essere acquistato direttamente dal consumatore finale, lo può fare già da subito all'interno della nostra campagna di crowdfunding su Indiegogo. Abbiamo riservato un prezzo veramente di lancio per i primi 100 baker di 39 euro. Lo stesso dispositivo può essere venduto alle aziende che decidono di acquistare uno stock e di distribuirlo ai top spender come regalo, ad esempio, oppure la stessa azienda può decidere di metterlo in vendita sulla propria piattaforma e-commerce o all'interno del punto vendita fisico, perché proponiamo anche l'integrazione della misurazione all'interno dello store fisico, quindi l'utente può entrare nel negozio, misurarsi in autonomia, perché con il nostro dispositivo ci si può misurare da soli, è una delle caratteristiche per cui è nata questa tecnologia, automisurazione, automatizzazione, quindi invio automatico della misura sul dispositivo e accuratezza, quindi siamo veramente a un margine di errore al millimetro, tutti potranno conoscere esattamente le misure del proprio corpo. La maggior parte delle persone non si approccia all'e-commerce proprio perché ha paura di sbagliare la taglia e noi vogliamo sensibilizzare tutte queste persone, avvicinarle all'e-commerce. L'e-commerce non è un ambiente ostile che ti fa fare acquisti sbagliati, ma utilizzando la giusta tecnologia, le giuste soluzioni, riesce a diventare comunque uno strumento alla portata di tutti. Ci sono realtà che non si conoscono, solo perché non hanno voce. Piccole Onlus, che ogni giorno, silenziosamente, svolgono un'attività preziosa. Essere una piccola Onlus non vuol dire gestire piccoli problemi. Conoscerle è il primo passo per capire. Parlarne è il primo passo per fare qualcosa insieme. Diamo voce a chi non ne ha. Le voci della pubblicità italiana scendono in campo a sostegno delle piccole Onlus con il progetto Adap Love. Il video, ne sentite la traccia audio in sottofondo, lo trovate sulla nostra pagina Facebook. Un progetto con cui si mettono a disposizione delle piccole realtà no profit che devono farsi sentire, appunto, rendersi visibili con un progetto di comunicazione, uno spot. Una bella iniziativa che è anche una sorta di call to action per tutto il mondo della comunicazione, ce la siamo fatta raccontare da Claudio Ridolfo, il presidente di ADAP, l'associazione che riunisce doppiatori e attori pubblicitari. Noi come ADAP, l'ADAP ne hai già parlato tu, è l'associazione dei doppiatori della pubblicità, degli speaker pubblicitari, è un'associazione che in Italia è unica, esiste da più di 30 anni e raccoglie dall'inizio, dalla sua istituzione nell'81, quando iniziava la TV commerciale, raccoglie le, tra virgolette, noi ci riteniamo tali, le migliori voci professionali in materia di pubblicità sulla piazza. La nostra piazza è quella prevalentemente milanese per origini, ma non per preclusione nei confronti delle altre città o del resto d'Italia. Comunque le voci che sentiamo abitualmente nella pubblicità molto spesso appartengono uomini, donne e bambini all'ADAP, E noi siamo sempre stati vicini, ci siamo sempre sentiti vicini alle piccole onlus, soprattutto perché, per carità, sappiamo quanto esista nel mondo delle onlus, ma noi che siamo le voci e che abbiamo la presunzione di essere le migliori voci per la comunicazione del messaggio che qualunque prodotto ha bisogno di avere a fianco, diciamo, lo dicevamo anche prima, ma adesso ha preso più forza questa cosa, abbiamo istituito questo contenitore che si chiama LOVE, Little Onlus Voice Equity, e vogliamo che sia un acronimo che richiami ovviamente all'amore, ma che sia sempre ben riconoscibile parlando di piccole onlus. Le piccole onlus che mettono veramente tanta energia e tanto lavoro meritorio ogni giorno e che hanno bisogno spesso di farsi sentire anche a livello locale, e più la loro voce è autorevole e più magari riescono a sfondare, no, quella membrana che separa l'attività di ogni giorno dalla conoscenza, insomma. Vorremmo aiutare. Noi mettiamo la voce e il progetto vorrebbe coinvolgere anche altre realtà, perché la pubblicità, come ben sai, viene fatta sì dalla voce, ma diciamo che solo la parte finale. Una buona voce, la voce giusta ti fa vendere il prodotto, ma prima ci deve essere un'idea, prima ci deve essere un testo, prima ci deve essere una casa di produzione, un'agenzia di pubblicità che lo pensa, una casa di produzione che lo realizza. Non voglio andare avanti troppo, ma voglio solo dire che noi cominciamo da qui, diciamo, noi mettiamo attraverso lo spot, e grazie all'amicizia, alla grande disponibilità di Duccio Forzano, che ha ci ha dato la sua professionalità, il suo calore, la sua abilità, la sua bravura per realizzare questo piccolo spot nel quale noi mettiamo Duccio Forzano è un regista importante televisivo. Grazie a lui, grazie alla forza del gruppo, siamo riusciti a comunicare, speriamo di riuscirci, a comunicare qualcosa che vuol dire noi mettiamo la nostra faccia per aiutare le piccole onlus, offrendo la nostra voce. Per adesso noi possiamo dire offriamo la nostra voce a titolo gratuito, mandateci il vostro messaggio, noi vi permettiamo di avere la voce giusta, vi diamo la voce giusta per la vostra comunicazione. Ovviamente servirà una messa in onda di queste cose, quindi l'obiettivo è avere sempre più collaborazione con le radio, con le concessionarie ovviamente, per avere uno spazio, questo spazio LOVE vorremmo che fosse lo spazio delle TV, delle agenzie, delle case di produzione, dei freelance. È presuntuoso magari pensare di arrivare a tanto, però noi cominciamo così. Una sorta di call to action, quindi esatto, Claudio, per esatto, tutti, insomma, uniamo le forze e esatto, diamo voce a chi non ce l'ha, a chi non riesce a farsi sentire. Ecco, quanto è cambiato in questi anni, quanto è cambiato il messaggio, l'utilizzo delle vostre professionalità nel messaggio pubblicitario? Ci sono tendenze che si susseguono, l'utilizzo dei claim, modalità diverse? Sostanzialmente no, direi che non è cambiato granché. L'utilizzo dei claim direi che viene confermato. L'utilizzo della voce non è sempre confermato nella lettura del claim, più che del claim del marchio del prodotto. Certo. A volte capita di vedere la sovraimpressione anche del claim nuda e cruda. Sono scelte, ma non credo che sia una tendenza a non usare la voce. Peraltro la voce credo che sia la cosa meno sostituibile, perché comunque se vai in radio c'è bisogno della voce, se vai in TV c'è ancora tanto bisogno della voce, e per uscire dal piattume dei messaggi è necessaria non solo una voce giusta, e io spesso non sento le voci giuste sul prodotto. Noto una tendenza a, non lo so, forse sto invecchiando io e sono più giovani coloro che operano nel mondo della pubblicità, però molto spesso mi trovo a sentire una voce di un giovane uomo che parla da professionista navigato, da questa è la mia officina da 20 anni, ecco. Questa certo, cosa a me non convince, a me non arriva. Come voci non professionali utilizzate malamente, devo dire, questo porta un po' di acqua al mio mulino, malamente al posto di voci che invece sarebbero molto più giuste per parlare di qualunque prodotto. Essere e avere. 1, 2, 3, 4, 5.

Sicuramente anche negli Stati Uniti c'è un marchio che è un riferimento del Normcore, che è Gap, che ha fatto del dress normal anche il tag di una campagna pubblicitaria recente. Sempre negli Stati Uniti non dimentichiamoci nemmeno di Levi's, che negli ultimi anni ha puntato tutta la sua comunicazione sul, e anche la produzione poi di capi, sul tema del commuter, quindi del pendolare, e cosa c'è di più normale, di più quotidiano della vita del pendolare. Al di là della moda, Paolo, gli altri riferimenti di questa cornice new normal quali sono? Mi piacerebbe citare un film che è Her di Spike Jonze, Lei, il film con Joaquin Phoenix e Scarlett Johansson, che era presente solo in voce, diciamo con la Ramazzotti nell'edizione italiana. È la storia di questo ragazzo normale, di questo signore normale, che si innamora di un sistema operativo, quindi si innamora sostanzialmente della voce che esce dal suo computer e dai suoi strumenti digitali. Ok, ci sembra fantascienza, ma sicuramente anche noi oggi parliamo con gli assistenti vocali dei nostri computer, dei nostri tablet, dei nostri telefoni, quindi è una fantascienza molto presente. Dal punto di vista estetico, dal punto di vista dello stile, era rispettato questo pensiero anche nel film, perché non c'erano scenari da Gattaca o scenari da 2001 Odissea nello spazio, una normalità molto quotidiana, uno stile fatto di colori neutri, un design sia della casa sia dell'arredamento e dell'abbigliamento molto comune, molto semplice, e soprattutto delle atmosfere per niente drammatiche, nonostante, anche se vogliamo, il tema possa essere molto attuale e possa scatenare anche dei dibattiti molto accesi. Ecco, tutto il film è proprio giocato su questo filo di una normalità che è sicuramente non molto lontana dalla nostra vita quotidiana. Dal punto di vista dei riferimenti culturali? Allora, un libro molto interessante l'ha scritto di recente Douglas Rushkoff, un libro che si intitola Present Shock nella versione originale, che è diventato Presente Continuo nell'edizione italiana. Questo libro vuole fare un po' il verso a Future Shock, un libro classico di Alvin Toffler di qualche decennio fa. Oggi il vero shock, dice Rushkoff, si gioca nel presente. Siamo malati di presentismo, troppo concentrati sul presente. Chiaramente lo sguardo di Rushkoff è molto critico, certo, però apre un dibattito molto molto interessante su come la rapidità della tecnologia ci abbia portato a voler vivere una sorta di eterno presente. Diciamo che il normcore può essere, il new normal può essere una rappresentazione visiva, estetica, abbastanza chiara di questo sentimento di eterno presente. Grazie a Paolo Ferrarini per essere stato con noi. Grazie a voi, a presto. Il consumautore. Questo è lo spazio in cui raccontiamo, analizziamo, ci interroghiamo sulle piccole e grandi rivoluzioni in atto nel mondo dei consumi. Sono rivoluzioni dettate dalla crisi, ma non solo, sono cambiamenti radicali nell'atteggiamento del consumatore. Lo facciamo di settimana in settimana con Francesco Morace. Ben ritrovato, ciao Francesco. Ciao, buongiorno a tutti. Oggi so, me lo hai anticipato poco fa, che vuoi partire da una parola chiave. Sì, oggi vorrei partire dal talento, anche perché negli ultime settimane in Italia sono state proposte alcune letture del talento italiano su cui si è discusso e diciamo anche abbiamo litigato parecchio. Quindi ti stai riferendo al video di cui si è parlato molto anche in rete, è stato anticipato dal governo a Davos, quindi una platea eccellente che insomma descrive il talento dell'Italia, che cosa siamo bravi a fare al di là degli stereotipi. Sì, io sottolineerei l'intelligenza in questo caso anche soltanto del titolo che è stato creato, e cioè Italy the Extraordinary Commonplace, cioè il luogo comune che però è sempre straordinario. Questa è una campagna del Ministro dello Sviluppo Economico che mette in evidenza quanto gli italiani siano non solo bravi a proporsi con i nostri classici stereotipi, quindi la pizza, la moda, la gesticolazione, ecco, ma anche nel produrre, ad esempio, straordinarie macchine biomedicali, macchine aerospaziali, e quindi trovo francamente limitativo protestare perché magari la moda o il design del cibo non sono al centro di questa campagna, perché vengono dati un po' per scontati. Beh, un talento anche quello della polemica per l'Italia. Ce n'è stata un'altra che ha fatto molto notizia, quella del Veribello. Sì, ecco, in questo caso invece io mi sento di condividere le critiche, perché va bene partire dai luoghi comuni, però poi bisogna sempre dare un punto di vista che sia più incisivo, profondo, alternativo. Io su questo suggerirei di guardare ad esempio i nostri straordinari artisti del Novecento, perché al di là di quello che possiamo pensare dei futuristi, questa idea ad esempio delle macchine meravigliose che loro avevano, oppure la stessa metafisica di De Chirico, ci permette di andare molto al di là del Veribello, come normalmente intendiamo. Quindi l'Italia deve ritrovare di crescita, stiamo parlando, no? Di questo, deve ritrovare anche una certa passione per il talento, le aziende italiane, i protagonisti anche culturali italiani. Certamente, passione per il talento e andare un po' in questo caso al di là della definizione, perché così come un tempo si parlava sempre solo di qualità, oggi si parla solo di talento, ma dobbiamo anche capire come alimentarlo e come trovare sempre un punto di vista che sia nostro e originale e riconosciuto nel mondo. E come costruire, anche tu lo scrivi nel tuo libro Francesco, Crescita Felice, lo ricordiamo tra l'altro, è appena uscito, tu scrivi anche come costruire un'economia del talento. Esattamente, quindi partendo da un riconoscere dalle giovani generazioni, mettendo nelle condizioni i nostri figli e i nostri allievi di comprendere la propria unicità in termini di talento, e poi però saperlo condividere e costruire su questo una visione nuova. E questo le aziende e i creativi devono veramente reimparare a farlo. A domenica prossima, grazie Francesco. Grazie a te. Grazie anche a Paolo Corleoni in regia, finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, resta solo il tempo per salutarvi e darvi appuntamento come sempre a domenica prossima alle 15, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.